abbastanza coraggiosi a volte del Magistero, tenuto conto della situazione culturale, ma con una profonda autocritica. Il convegno nostro è rivolto prevalentemente ai teologi, quindi questa volta Chiavacci ci ha sfidato con un titolo: La teologia, cosa è scritto? Pace tradita. E quindi in questo momento noi dobbiamo essere presenti a questo discorso in maniera attiva, da protagonisti, e quindi non ascoltare Chiavacci soltanto per quello che dice, ma per quello che provoca in noi, e ciascuno vedere se deve fare e può fare qualche cosa perché si realizzi anche a livello di pensiero, non soltanto di decisioni, come diceva stamattina Don Gambin, qualche cosa per questa svolta. Io la considero svolta storica, il recupero finalmente del Vangelo, non a livello soltanto di pace interiore, ma un progetto di pace per l'umanità. Chiavacci non ha bisogno, formula usitata, di presentazioni, perché lui su questo tema ormai gioca parecchio la sua vita, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, dentro i settori dei pensatori moralisti, ma anche nell'ambito di presa di posizione della Chiesa. Quindi ci guiderà, ma noi tutti poi collaboreremo per tirare qualche conseguenza che fruttifichi anche nel nostro insegnamento. Io devo fare una premessa, che è questa. La mia esposizione non sarà di teologia positiva, ma sarà quello che si dice teologia sintetica. Io tenterò una proposta. Questo tentare una proposta sintetica richiede competenze diverse che nessuno penso possa avere in maniera soddisfacente, sia bibliche, soprattutto bibliche, sia storiche, sia teologico-dogmatiche, sia anche teologico-morali, e anche competenze di quello che sta succedendo oggi, cioè della realtà umana strutturale quale esiste oggi sulla faccia della Terra. È impensabile che un essere umano possa da solo dominare completamente questi settori, quindi tutti i punti che io presenterò sono punti deboli, ma presi insieme forse possono dare un senso. Questo è un poco un'apologia pro esposizione mea. La prima cosa è questa. Io parto da questa tesi, che l'idea di pace ha un'enorme rilevanza nell'annuncio del Vangelo, nell'annuncio del Regno, e che può considerarsi addirittura l'essenza, il nucleo del dono del risorto. Un'interpretazione che io favorisco di Giovanni 20:19 dice proprio questo. Ma è anche fuori dubbio che questo termine pace, come è stato già rilevato, ha una grossa densità semantica, cioè ha più valenze, no? Non è definibile con un sinonimo, va definito partendo da che cosa questa parola poteva evocare come risonanze in quell'ambito culturale, che poi è quello dell'Antico Testamento, no? In cui viene pronunciata. Quando perciò il cristiano, la teologia, si sente per fedeltà all'annuncio del Vangelo, si sente tenuta a riflettere sui suoi compiti in ordine alla pace sulla terra, è da questo complesso significato che deve muovere, non può partire da altro. E questo significato costituirà il compito, o almeno un compito fondamentale, sia per il singolo credente, sia per tutte le chiese di denominazione cristiana. E quindi, prima cosa, cerchiamo di riprendere la riflessione biblica trasformandola in una teologia biblica, cioè una visione globale, no? Non esegetica, ma globale di quello che può avere di senso la parola pace nell'uso neotestamentario e direi soprattutto nell'uso del Vangelo. Io credo che in tutto l'Antico Testamento, almeno in tutta la parte profetica dell'Antico Testamento, ci sia un nesso stretto fra pace e giustizia. Per questo citavo ieri Isaia 32, 17, frutto della giustizia sarà la pace. Questo nesso fra pace come sussistenza definitiva dell'ordine voluto da Dio per la complessa organizzazione della sua creazione, questa potrebbe essere una definizione formale di Shalom. Questa pace diviene a livello di creature umane comunicanti fra di loro, o comunque in grado di comunicare fra di loro, diventa realizzazione della giustizia. Ma la giustizia, anche questo è un termine complesso. La giustizia certamente non è la giustizia delle aule dei nostri tribunali, è un concetto diverso. La giustizia è la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio, io credo giusto, che sia da ritenersi la giustizia resa al povero. L'analisi del padre Dupont sono molto stimolanti su questa parzialità di Dio, che non è solo poi della Bibbia, ma è anche un po' di tutta l'area culturale medio orientale dell'epoca. La giustizia è resa al povero, dove povero a sua volta ha un senso diverso da quello che usiamo noi, perché globalmente il povero non è necessariamente quello senza quattrini, è quello senza protezione, è l'indifeso. Povero l'orfano, la vedova, lo straniero, e chiunque è indifeso è oppresso, o comunque è esposto all'oppressione altrui. La difesa del debole, dell'inerme, dell'oppresso, del disarmato. Quindi c'è un nesso strettissimo, che adesso qui non posso analizzare ovviamente, fra questi tre termini: pace, giustizia, povero. La nostra giustizia è una giustizia che dà senza attendere, in fondo contro quell'idea di un Dio dell'ira che mi sembra un po' strana, così assolutizzata, se non, come diceva uno di loro stamani parlando così molto opportunamente, un'ira pedagogica. C'è un Dio che invece è benevolenza. Lo stesso patto, il testamento, è un patto fra disuguali, di uno che per pura benevolenza, senza attendere niente, insomma, in fondo come contratto di ricambio, per pura benevolenza dona, dà, perdona, aspetta, eccetera. Questo Dio è Dio benevolo. Questa giustizia di Dio, questa benevolenza divina, che dà senza aspettare niente, presta senza recuperare, che poi troviamo anche nel Vangelo, ma non è che sia nuova del Vangelo, è già nel comportamento di Dio verso il suo popolo nell'Antico Testamento. Questa giustizia di Dio deve rispecchiarsi nella convivenza umana. E infatti il grande rimprovero è sempre più o meno riconducibile allo schema: anche tu eri straniero in terra d'Egitto ed io ti ho liberato, così ora vai. È più o meno questo, è lo schema logico che determina il giudizio che Dio dà sul suo popolo. A un certo punto questo popolo tradisce questa logica di Dio di cui parlava ieri il predatore, tradisce questa logica di Dio e per questo viene rifiutato da Dio. Ormai l'attesa è messianica. A un certo punto, probabilmente proprio con Amos, Isaia, quell'epoca lì, ma non so esattamente quando, a un certo punto il popolo diventa non più il popolo di Dio, è il popolo che tradisce l'attesa di Dio su di lui. Un popolo che ha certamente un compito storico, che deve realizzare di generazione in generazione, e che in quel momento tradisce l'attesa di Dio. E l'attesa di Dio era che questo popolo fosse il luogo in cui si manifestava, si rifletteva la benevolenza di Dio, la giustizia di Dio, la giustizia resa al povero. E allora ecco l'attesa messianica, e ancora Isaia 32, all'inizio, guarda, behold, ecco, non traduce bene, guarda, ecco la visione, no? Il re che regnerà con giustizia e i principi che saranno la difesa del povero e dell'oppresso. come riparo dall'uragano, no? Come ombra di una grande roccia su una terra deserta. Questa è la funzione del re, del principe, del messia. Questo è il tipo di vita associata che si aspetta per i tempi messianici. E allora è chiaro che frutto della giustizia sarà la pace quando scenderà su di voi lo spirito dall'alto. Quindi è un dono che si attende per i tempi venturi. Ora, questo doppio collegamento, pace giustizia e giustizia poveri, è un collegamento importante perché ci fa vedere come ogni forma di sfruttamento dell'uomo, dominio sull'uomo, sia ingiustizia e sia non pace, renda impossibile il disegno divino sulla storia. Ed è questo il tema che emerge, e vorrei fermare un momento di più, nel Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, questi temi antico testamentari vengono tutti ripresi, basti pensare alla testimonianza di fronte ai discepoli di Giovanni, basti pensare a Luca 4, Gesù a Nazareth, basti pensare alle stesse beatitudini, se vengono intese come penso che debbano essere intese, almeno nella versione originale, non come un compito morale, ma come l'autopresentazione di Gesù, che prende su di sé il carico del compito messianico. Ma questo tema viene ripreso con due grosse novità. E non sono cambiamento, inversione di rotta, come da un dio dell'ira a un dio della benevolenza, no, io non credo a questo, ma sono di altro tipo. La prima novità è che viene data la giustificazione ultima di questa benevolenza di Dio, di questa giustizia di Dio resa al povero. Ecco, l'espressione dell'altare di Gedeone, Dio e pace, trova ora un senso molto preciso. E proprio in quelli che tradizionalmente sono i misteri principali della fede, unità e trinità di Dio, incarnazione, passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo, e che storicamente sono il cardine di tutto il dogma cristiano, proprio qui viene rivelata nel Vangelo la natura profonda di Dio. Allora, quel Dio è pace che Gedeone, probabilmente con un orizzonte mentale molto limitato, scritto sul chip, acquista un senso molto diverso e molto più profondo. La risposta alla domanda che cosa è Dio è ormai solo questa, no? Dio è dono totale di sé. Così ci appare nel rapporto padre-figlio. È inutile citare qui i testi, no? Così ci appare poi nella teologizzazione del dogma trinitario, come relazione opposta all'origine fra persone, ma questa relazione è pura relazione di dono. Non c'è, capito, un Dio che fra tante cose, oltretutto, fa del bene, ecco, si dona. Dio è identico con questa relazione di dono totale. Conoscere Dio come dono di sé, agape, se vogliamo usare questo termine, che del resto Giovanni definisce, no? Dice Dio è carità, ma cos'è carità? Nessuno ha maggior carità di chi dà la vita per coloro che ha, no? E così Dio ha tanto amato il mondo, il figlio dell'uomo è venuto per servire e non per essere servito, ma tutta la vita di Gesù, come ieri è stato opportunamente ricordato, negli stessi miracoli, tutto punta a una sola direzione, questo totale mettersi a servizio. Allora questa conoscenza di Dio si ribalta immediatamente in basic premise, basic value, valore fondamentale, Grundwert, nel campo etico. Perché se questo è Dio, questo diventa automaticamente, immediatamente, senso profondo e ultimo dell'esistenza per ogni essere umano. E direi si trasforma in traguardo ultimo, non solo per ogni singolo essere umano, ma per la famiglia umana nel suo complesso. Questo punto richiederebbe un'analisi che adesso non posso fare. La promessa di pace, perciò, di Giovanni 14:27, che abbiamo letto poi domenica, il dono della pace, Giovanni 20:19, no? Non fanno altro che incorniciare prima e dopo la grande preghiera, ciò per cui Gesù muore, per cui prega, perché tutti siano una cosa sola, non per voi, ma anche per gli altri, prego, perché siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola. Questa logica di Dio, che noi vediamo nell'assolutezza del dono fra persone, deve diventare la logica della convivenza, della relazione fra esseri umani, e questa è la pace. L'incarnazione del Verbo, che pone le sue tende in mezzo a noi, che è dato per la salvezza del mondo, indica come questo Dio si volge poi totalmente con tutto il suo essere dono di sé, e non è altro che questo, all'umanità smarrita e divisa. Perché il mondo, e qui il mondo è nel senso positivo di Giovanni, non nel senso negativo, quello che il Concilio definirà poi l'umanità e la sua storia, perché il mondo abbia la vita, perché il mondo sia salvato, Dio si fa dono ad extra, diciamo, verso il mondo, e questa è l'incarnazione del Verbo. L'idea di pace come convivenza di puro dono viene presentata e presentabile, e il Concilio lo fa nel numero 24 di Gaudium et Spes, come traguardo per l'umanità, ma è il traguardo ultimo dell'umanità perché tale è Dio. Questo è il punto, per un conto mio, teologicamente rilevante, che non è stato mai sufficientemente rilevato, almeno in un passato recente, negli ultimi 2 o 3 secoli. Io non posso scindere questo tema della convivenza umana dalla fede nel Dio del nostro Signore Gesù Cristo, perché questa fede in questo Dio, non il Dio della Teodicea, poi non è nemmeno fede, è convinzione, questa fede nel Dio del nostro Signore Gesù Cristo è immediatamente e identicamente tensione verso un traguardo di convivenza e di coesistenza. La prima novità dunque è questa conoscenza di Dio. Dio si rivela, non più rivela se stesso attraverso profeti, ma si rivela con una vita vissuta. E questa vita vissuta è una vita donata. Questo dunque è Dio che si mostra. E allora ritrova tutto il suo significato, la benevolenza di Dio, la pace, la come giustizia, la giustizia come giustizia resa al povero, all'indifeso, no? Come il rovescio del dominio dell'uomo sull'uomo in tutte le sue forme. La seconda novità del Nuovo Testamento rispetto all'Antico è la trasformazione dell'attesa messianica in compito già incombente. Non abbiamo da attendere un altro Messia. Il Messia è venuto. Quello che era un'attesa diventa compito per noi. Questo potrebbe anche essere, ma qui lascio ai biblisti di elaborare l'idea, il perché Matteo traduce le beatitudini tutte in compiti morali, no? In fondo è perfettamente corretta l'operazione. Beati i poveri, beati gli affamati e i piangenti, che poi la base, forse, il centro, no, delle beatitudini, viene riletto come compito per noi. Quello che Gesù è, si presenta come tale, viene teologizzato, no? Catechistizzato come compito per noi. Quindi il nostro compito non è dell'essere poveri, questo ci sarà, ma sarà un'altra logica e un altro discorso. Il nostro compito è nel venire incontro al povero, che non ci siano più poveri nel senso, abbiamo spiegato, ampio di prima, non ci siano più affamati, non ci siano più oppressi. Questo è compito, la fine di ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo. Questo quindi crea un traguardo finale dell'umanità come famiglia che vive nella logica trinitaria, che non dispensa affatto dall'oggi, ma che anzi è la ragion per cui io oggi devo impegnarmi su questa strada. Il regno di Dio verrà, ma è già venuto, e la storia ha un senso in questo cammino verso la pienezza del regno. La lotta storica per l'avvento del regno è identica al cammino verso la pace. Ecco perché ho cominciato dicendo che l'idea di pace, presa nella sua complessità, con tutte le sue valenze semantiche, è il centro, il cuore, per conto mio, dell'annuncio del Vangelo. A questo punto è chiaro, per converso, cosa sia il peccato. Il peccato formalmente è rifiuto di Dio e della sua chiamata. Questo, tutta la teologia è d'accordo su questo. Ma questa definizione formale, che era già valida per l'Antico Testamento, acquista nel Nuovo Testamento un contenuto, non è più formale, perché io so che cosa è Dio, so la logica di Dio. Il peccato è il rovescio del dono, chiamiamolo dominio, no? Sfruttamento è solo un caso particolare. Punto di vista fenomenologico, io posso considerare come io prendo coscienza dell'altro. Lo metto dentro il mio progetto o costruisco il mio progetto su gli altri? Questo potrebbe essere un approccio filosofico interessante. Quindi ogni forma di egoismo, ricerca di dominio sull'altro, non è un peccato, una non osservanza fra le tante non osservanze possibili, ma è il rifiuto stesso della logica della missione di Gesù, il rifiuto di Dio. Io capisco che questo sia per molti, non di loro forse, ma per molti di generazioni passate, difficile da digerire. Come glossa potrei dire che quando si aprì il Concilio Vaticano II, lo schema di ordine morale presentava le due fonti dell'ordine morale come ci sono le due fonti della rivelazione, e cioè la carità, no, del Vangelo, e la legge naturale, come due fonti separate, distinte una dall'altra. E loro sanno, forse i moralisti certamente lo sanno, ma anche gli altri sanno, che nel problema, per esempio, della menzogna, quando c'è contrasto fra l'esigenza della carità, no, e l'esigenza del rispetto della legge naturale, allora vince la legge naturale, perché io non posso neanche per amore, no, mai mentire. Questo è un punto caratteristico, no? Se noi riportiamo tutto a questa logica di Dio, allora molte cose diventano chiare. Il discorso di ieri sera per me era veramente molto bello, molto illuminante, e il padre ci diceva dovunque nel Vangelo si trova questo stesso, pensino per esempio a tre luoghi classici, quattro, così tanto solo per citare, Matteo 16, indietro Satana, quando Pietro pensa a un regno da conquistare senza morire, diventa Satana, tu sei l'oppositore, no? Tu sei l'inciampo per me, no? E poi chiama e dice: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. Voi sapete quando i discepoli leticano per avere i primi posti nel ministero nuovo, no? Ma succede anche oggi, in fondo non è che sia una cosa molto, molto strana. Quello vuol diventare ministro degli interni, quello ministro degli esteri, leticano fra di loro e Gesù dice: guardate che i principi di questa terra spadroneggiano sui loro popoli. Non così sarà fra voi, ma chi vuole essere il più grande si faccia servo, come il figlio dell'uomo che è venuto per servire. Ecco, queste due logiche, no? Che appaiono costantemente. Luca 9, con la bellissima glossa, 9:53, non mi ricordo la citazione, quando i discepoli vogliono che vengono rifiutati in un villaggio, vuoi che chiamiamo il fuoco, no, su questo villaggio, il fuoco dal cielo, E Giulio rimprovera, e c'è quella bellissima glossa, che dice che è una glossa, a me piace molto lo stesso, insomma, dice: voi non sapete di che spirito siete, non avete capito nulla. Gesù di fronte a Pilato: il mio regno non è da questo mondo, non è un genitivo, non è il mondo di qua e il mondo di là, è un moto dal luogo, no? Non è secondo la logica lo spirito di questo mondo, ma è secondo un'altra logica, un altro spirito. Questa contrapposizione di logiche riguarda proprio il modo di atteggiarsi reciproco degli esseri umani e il tipo di convivenza che si può realizzare fra esseri umani. E questo potrebbe essere, questi esempi potrebbero essere moltiplicati a piacere. Ed ecco allora che il peccato, nella sua radice contenutistica di ogni peccato, è il rovescio della pace. È il rovescio di questo rifiuto del dominio, no? Ma mettersi a servizio dell'altro. Il peccato è non donarsi, è il dominio sull'uomo, è, se vogliamo, il cercare se stessi. Non c'è per l'uomo, capiscono, altra realizzazione di sé, altra pienezza di essere, se non nel dono sincero di sé. Questo testo del Concilio Vaticano II, tradotto male in italiano, alla fine del numero 24, l'uomo non può, dice l'italiano, trovare pienamente se stesso se non attraverso il dono sincero di sé. Il latino dice: non può plene se ipsum invenire. E plene se ipsum invenire non è tanto trovare nel senso vago, ma è proprio trovare la propria pienezza, no? Quello che diremmo noi, realizzarsi pienamente, ecco, se non nel dono di sé. Questo porta una serie di conseguenze sulla morale sociale indicibili, ma che non mi è dato qui enucleare, perché allora la società, le varie forme di società, il fatto sociale in sé non è più solo strumento per acquistare un perfezionamento che altrimenti sarebbe impossibile, ma diventa valore in sé. In questo momento che io sto parlando con loro, signori e colleghi, è importante sì che io posso dire qualcosa su cui discutere, ma la cosa più importante è che sono io che cerco di dire me stesso a voi. Questo non è solo strumento, ma è valore in sé. Almeno se io cerco di dire qualcosa, me stesso, e non solo qualcosa, no? A voi altri. Allora qui abbiamo una conseguenza teologica che il Concilio trae al numero 37 di Gaudium et Spes, che è questa: la immane lotta storica di tutta la storia contro le potenze delle tenebre, lotta che finirà solo nell'escaton, nell'ultimo giorno, per dono divino. Questa lotta è la lotta contro ogni stato di cose oppressivo, contro ogni situazione dei rapporti interumani che siano di chiusura, egoismo e dominio. Il Concilio dice: il mondo che è chiamato da Dio a essere spazium vere fraternitatis diventa invece il luogo del dominio, che è inteso come rovescio della fraternità. Io qui vorrei fare una critica così marginale. Anni fa facemmo in Italia, cioè fecero, perché non si preoccuparono molto di chiamare teologi e biblisti, il convegno su evangelizzazione e promozione umana. Ecco. Questa dicotomia, che non sapevano poi questi poveracci come ricucire, e si vede bene a occhio nudo dai testi del convegno, non è invece non ricucibile con una riflessione teologica sufficiente. Non c'è impensabile un'evangelizzazione che non sia l'annuncio del mondo come spazio di vera fraternità. È impensabile. Cosa è questa lotta contro il potere delle tenebre, se non contro questo continuo impegno in questa direzione? Non credo perciò, e questo importante per il nostro convegno, non credo perciò che sia neppur corretto porre il problema di come promuovere la pace in una struttura, in una situazione già data di peccato. Il titolo del nostro convegno è «Ha una sua ambiguità interna». Ciò equivarrebbe a ridurre il problema etico al problema dell'uso della violenza fisica. Quando sia lecito e quando non sia lecito. L'uso della violenza in questo Zwischenzeit, no? In questo tempo intermedio, è un tempo di peccato, ci vorrà anche, c'è la violenza, bisogna poter rispondere, eccetera. Quindi il problema sembrerebbe la pace all'interno di questa situazione. Questo è certamente un problema, che in sostanza è riducibile al problema della veridità normativa del quinto comandamento e ai suoi limiti in queste situazioni di peccato. Ma io credo che questo problema non possa essere risolto, seppur mai lo sarà, se non visto all'interno di questo compito di pace globale che ora ho cercato di delineare. In questo quadro, con il significato profondo di pace che ho cercato di spiegare, il peccato si presenta come rovescio della pace. Allora, la pace sulla terra è sempre, e non può essere che, tensione verso la Gerusalemme celeste, verso il traguardo finale. Lo vedono che l'ambiguità del titolo, no? È questa, è un annuncio di pace in questa situazione di peccato o è piuttosto un annuncio su questa situazione? Cioè questa situazione la prendo come un dato o la prendo come qualcosa su cui io devo profetizzare, devo parlare, devo incidere. Ecco i due modi possibili, no? Di porre il problema della pace. Come un problema particolare dell'etica normativa, dell'applicazione del quinto comandamento, o come il problema del vivere il Vangelo, basta. Questa tensione io ho cercato anni fa di sintetizzarla in due punti, tanto per dare un contenuto usabile, non certamente perfetto né esaustivo, ma se io voglio ragionare bisogna che adoperi delle parole, dei concetti, no? Un contenuto usabile metodologicamente per definire questa pace così vista. Direi che il negativo è l'impegno contro ogni stato di cose oppressive. Cioè l'impegno contro ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo. Dominio, sfruttamento, quello che volete. In positivo è l'impegno per la fraternità universale, dove la parola fraternità universale è l'espressione del Concilio, ma fraternità qui vuol dire il mettersi a servizio dell'altro. Possiamo parlare di corresponsabilità per le sorti degli altri esseri umani, possiamo parlare di solidarietà, possiamo usare qualunque termine di questo tipo, ma questo doppio elemento, da un lato il rifiuto e l'impegno contro ogni stato di cose in cui c'è un dominio dell'uomo sull'uomo, dall'altro molto di più, quindi non è solo l'equivalente in positivo, ma è un'aggiunta, l'atteggiamento di servizio come senso ultimo della nostra esistenza. Prendendo questi due termini insieme, allora se questa è la pace, il rovescio di questa pace è il peccato, no? Una volta accettata questa proposta, segue che la categoria biblica pace avrebbe dovuto dar luogo a una trattazione ed elaborazione teologico-sistematica. È talmente importante, centrale nell'annuncio, che non si vede come, si vede anche come, insomma, è molto strano che nel manuale di teologia dogmatica non sia trovato un posto per questo. Forse il Trattato dei Novissimi poteva essere il posto adatto, no? Vedere il traguardo e quindi questo cammino verso il traguardo, forse. Di fatto il capitolo pace, nelle grandi sistemazioni teologiche, dommatica o morale non interessa, non esiste. Non esiste nei catechismi, io sto parlando fino al Concilio Vaticano II, non dopo, dopo no, dopo il problema le cose sono diverse. Non esiste nella predicazione, non esiste nei manuali né di dommatica né di morale. Ciò che esiste, si può dire approssimativamente, che il tema della pace era sentito in questo senso globale come grosso tema teologico da Sant'Agostino. Questo è il 19° capitolo del libro del Decipite Dei, a cui si riferiva stamani, non mi ricordo chi, è proprio questo pace, proprio, parla della pace dell'intestino, no? Addirittura comincia la pace interiore dell'organismo e poi si estende fino a tutti i confini della pace. Ecco, dal Decipite Dei di Sant'Agostino fino probabilmente, forse qualcosa Rosmini, ma non l'ho studiato tanto, ma fino al testo La teologia della pace di Combelin, che poi è del 1961, pare sia il 59, praticamente a livello di riflessione teologica sistematica c'è un vuoto totale, che è ben strano, di fatto però c'è. Si può pensare al magistero sociale della Chiesa, è vero, ma prima di tutto questo è estremamente recente. Poi non è una trattazione sistematica, è sporadica, occasionale, direi storicamente condizionata, fortemente condizionata. In terzo luogo per motivi ovvi, storici, contingenti, ma anche per motivi meno ovvi di condizionamento culturale, in fondo la mano è calcata sempre sul principio di sussidiarietà, e quindi della vita di relazione come strumento per il mio perfezionamento, piuttosto che sul principio di solidarietà, cioè il fatto della mia corresponsabilità per gli altri come realizzazione di me stesso. E qui la scuola tedesca della Ganzheit, no? In Italia è stata completamente ignorata, questo è solo. Ma in quarto luogo questo magistero fino al Concilio non giunge mai a una visione planetaria del bene comune, quindi la visione di questa intera famiglia umana che ha un unico traguardo verso cui camminare. E in ultimo luogo, ma per me in questo momento dal punto di vista della ricerca il più importante, questo magistero sociale pontificio non ha in nulla scalfito le trattazioni teologico-sistematiche, sia dogmatica sia morale. Il manuale di morale precedenti al Concilio, i posteriori sono pochissimi, quelli precedenti al Concilio ignorano tranquillamente il magistero sociale della Chiesa, e quindi questo povero magistero, benché abbia in sé molte ricchezze, queste non passano nella teologia. Vengono anche proprio sistematicamente come curriculum tenute fuori dalla teologia. Loro tutti sanno, perlomeno i meno giovani sanno, che la morale sociale o la filosofia sociale, insomma, morale sociale, ma anche la dottrina sociale cristiana, non facevano parte dei curriculum di teologia. Si insegnavano nel miglior dei casi in filosofia. Io ho cominciato insegnando filosofia morale e quindi facendo morale sociale, ma nei corsi filosofici propedeutici. E nel peggiore dei casi erano conferenzine marginali di scarsissimo interesse sulla dottrina sociale cristiana, al pensiero sociale cristiano, che si tenevano parallelamente ai corsi teologici come cosine di serie B, ecco così. Ma nella teologia non sono mai entrati. Si trovano un manuale di morale del 1940-50, in cui venga preso sul serio, no? La tematica proposta dallo stesso magistero sociale della Chiesa, per non parlare poi di quello che già si intravedeva, niente, vuoto assoluto. Se noi ci riferiamo alla situazione odierna, non possiamo esimerci dal conoscere il pensiero teologico che precede immediatamente il Concilio, perché questo influenza tuttora e molto pesantemente buona parte del mondo cristiano e della stessa gerarchia. l'ultimo capitolo della Gaudium et Spes fu approvato solo dopo una battaglia feroce e con buon numero di padri che addirittura rifiutavano di votare tutto il documento se gli passavano l'ultimo capitolo, quello sulla pace. Queste cose ben note, che si sanno bene, no? Quindi vuol dire che qualcosa di nuovo nel Concilio c'è, ma questo qualcosa di nuovo ancora non è digerito. Per conto mio, da molta gente, non è assolutamente digerito, neanche forse conosciuto. Per capire il nuovo bisogna avere una pallida idea del vecchio, cioè qual era il discorso sulla pace nei manuali di teologia morale fino al Concilio. Qui c'è un tipo di problema che è inevitabile, ma io lo evito per forza di cose, perché esula direttamente dal mio tema e richiederebbe un'oretta di trattazione a parte. Rinvio eventualmente al secondo volume della mia teologia morale generale. È forse il tema teologico però più rilevante di tutti. Questo atteggiamento, diciamo, di rifiuto dalla teologia del fatto sociale e perciò anche del tema della pace globale in positivo, è con tutta probabilità sostenuto, forse creato, dalla rigida separazione, la dicotomia rigida fra ordine naturale e ordine soprannaturale che venne fuori nel 1500. Non fa meraviglia che dopo che il padre degli Ubac ebbe, diciamo, smascherato, no, questo fatto come non un dogma o un qualcosa di standard nella teologia cristiana, ma qualcosa di molto recente, nata in certe condizioni per certi problemi particolari, che si è potuto recuperare il fatto sociale all'interno della teologia vera e propria. Ma questo è un tema che non posso qui trattare, lo enuncio appena. Una volta superata questa dicotomia rigida fra ordine naturale e ordine soprannaturale, allora anche il fatto sociale non è più qualcosa che va secondo le leggi della natura filosofica e basta, è qualcosa che può avere, deve avere rilevanza teologica, ma quindi io non posso fare niente. Nel manuale di teologia morale, la pace viene considerata solo in negativo. Non è la pace che preoccupa, ma è la guerra. E non la guerra da evitare a ogni costo. Il problema è quando la guerra sia giusta e quando la guerra sia ingiusta. Questo è il problema dei manuali di morale. Quindi non è de bello vitando, no? Ma è quando, a quali condizioni sia giusta, a quali condizioni sia ingiusta. Il tema della guerra giusta che nasce con Sant'Ambrogio, Sant'Agostino verso quell'epoca, nasceva in un quadro storico completamente diverso. Nel manuale di morale nasce in un quadro storico ben preciso, che è quello degli stati sovrani. Il tema della guerra giusta, viene ripreso in questo quadro e questo ha un grande significato. Perché? Perché la guerra giusta viene ora considerata un modo normale, eccezionale quanto volete, ma teorizzato, specificato, quindi riconosciuto, di sistemare rapporti fra stati sovrani. Lo stato sovrano è autofinalizzato. In questa autofinalizzazione si può trovarsi in contrasto con altri stati. Ci sono vari modi per risolvere i contrasti, quando altri modi falliscono c'è questo modo. Quindi bellum non est per sé in onestum, questa è la prima tesi. Poi, seconda tesi, ad belli dice itatem requiruntur, e qui vengono alcune condizioni. Di queste condizioni a noi interessa una in particolare, che è la causa giusta. Perché mi interessa questa condizione? Perché se noi studiamo i manuali sia di filosofia morale sia di teologia morale, la giusta causa non è affatto la legittima difesa. Questo è un equivoco che va scardinato, non c'è niente a che vedere. La legittima difesa, nel senso tecnico di difesa violenta da un'aggressione violenta e ingiusta in atto, questo è solo uno dei mille casi, le mille cause di guerra giusta. La guerra è giusta quando è giusto il fine, cioè quando io devo difendere il bene comune del mio Stato, della mia comunità, e che può essere offeso in tanti modi, anche il prestigio alla bandiera, il prestigio del buon nome dello Stato, diritti di passaggio distretti, diritti economici, quindi tutte cose che non hanno niente a che vedere con la legittima difesa in senso preciso, tecnico, e poi queste sono estese ancora. Si ricorderanno loro il Sepulveda contro Bartolomeo Las Casas, che sosteneva che, insomma, si può anche fare la guerra e rendere schiavi gli indios, uteis fides melius suadeatur. Questa è una causa giusta. La guerra d'Africa, l'Abissinia, io non ho mai sentito nessuno protestare, un ragazzino, ma non ho sentito nemmeno un prete protestare contro la guerra d'Abissinia, a meno protestare dal pulpito a lezione di catechismo, perché se protestava nel segreto della stanza non serviva a nulla, no? Nessuno ha protestato, ma noi portavamo la civiltà. Ecco, allora portare la civiltà è una causa giusta. E tante altre. La guerra giusta non è la legittima difesa. Leviamocelo di testa. La guerra giusta è una cosa per la quale si possono usare tutti i mezzi necessari allo scopo. La legittima difesa è un'altra cosa, completamente diversa, con dei limiti fortissimi nell'uso dei mezzi da adoperare e nelle finalità da perseguire. La finalità della guerra giusta nel manuale di morale è la depressione del nemico. La depressione, che vuol dire in tutti i modi possibili, no? La legittima difesa, l'unico scopo è impedire che mi faccia del male. È impensabile uno status duraturo nel tempo, no? Ufficializzato di legittima difesa. La legittima difesa vale nel momento in cui io sono minacciato direttamente, no? Cerco di evitare un male che mi si sta portando. Lo stato di guerra è una cosa che si dichiara ufficialmente con carta da bollo nelle forme prescritte, che rimane finché non si fa la pace. C'è una radicale differenza tra i due concetti. Non si possono mescolare. E di qui viene tanta difficoltà oggi, come vedremo fra un minuto, eh? In pratica, che è successo? Che con la varietà di cause giuste, le chiese, e non dico la chiesa, le chiese non hanno mai dichiarato ingiusta una guerra. Un modo per dire che non era, che era giusta, si è sempre trovato, insomma, ecco. Sono esempi due soli che io abbia chiari davanti a me. Monsignor Romero ha chiesto ai soldati di disobbedire agli ordini del loro comandante, perché ovviamente era un atto di guerra ingiusta, no? E il povero contadino Jägerstätter, uno dei pochi obiettori di coscienza di Linz, no? Che è il vescovo che lo commemorò allo scoprimento di un monumento in suo onore nel 1952, disse: sì, ammiratelo, ma non imitatelo. Imitate piuttosto i milioni di buoni genitori, buoni seminaristi, buoni ecclesiastici che hanno fatto il loro dovere verso la patria. Ecco, questi due esempi illustrano quello che giace al fondo dell'atteggiamento mentale ecclesiastico di fronte alla guerra e alla pace. Ciò che giace al fondo è, in fondo, lo Stato sovrano e l'autorità politica da rispettare. A partire dal XVI secolo l'umanità viene divisa in stati territoriali e sovrani. Lo Stato diventa il titolare del concetto tradizionale di bonum commune. Questa operazione è importantissima, perché il bonum comune è identico con il fine della società civile, cioè dello singolo Stato. Ogni Stato è in ciò, nel perseguimento del bonum comune, sovrano. Così nasce la guerra giusta, in un senso molto diverso da quello di un Sant'Agostino, e nasce il diritto internazionale proprio come jus pacis et belli, convenzioni per regolare i rapporti fra stati sia in modo pacifico sia attraverso la guerra. Su queste basi è chiaro che la guerra giusta e la legittima difesa sono cose completamente diverse. È chiaro anche che questa idea di guerra giusta uccide completamente e si contrappone direttamente all'idea biblica e teologica di pace che è sopra presentato. Noi abbiamo praticamente questi tre temi standard che costituiscono insieme una mentalità standard che tutti noi ancora in qualche misura portiamo in noi stessi, noi compresi i vescovi, i buoni cristiani, è difficile a morire, no? Una mentalità di 3-4 secoli è difficile disincrostarci da questo. Un'umanità divisa, quasi fosse per volere divino, in stati sovrani. E sovrani qui vuol dire ciascuno dei quali ha diritto e titolo di perseguire il proprio bene comune come fine supremo. Secondo, un'autorità politica non sfidabile, in pratica, dalla coscienza cristiana. Non c'è una guerra, fino al concilio, in cui si sia detto questa guerra è ingiusta, io... Il film di Lara, no? Chi ne chiuderà fa, ricordo Sartori, nel 60, quando la Pira fece proiettare a Firenze, fu proibito. Nel 60, non nel 1860, ora. Terza idea, la guerra come modo estremo, ma riconosciuto, legittimo, moralmente legittimo, di tutelare questo bene comune. Stato sovrano, autorità praticamente intangibile, guerra giusta. Queste tre idee prese insieme costituiscono la base di quello che io chiamo la pace tradita. Sono tre idee standard che costituiscono una mentalità comune, nessuna delle quali regge di fronte all'annuncio biblico. Dunque, queste tre idee sono state largamente superate dal magistero conciliare e pontificio, ma solo a livello di dottrina, non ancora, o se non molto ostentatamente, a livello di prassi. E anche a livello di dottrina, salvo eccezioni molto rare, l'idea di pace evangelica che ho proposto, si scontra con la realtà delle strutture politiche economiche esistenti. Questa realtà dura e contraddicente l'ideale di pace viene in genere considerata solo un ostacolo alla realizzazione dell'ideale di pace, invece di essere considerata, come dovrebbe per conto mio, la negazione dell'ideale di pace. Tema che ho citato poc'anzi, no? L'ambiguità del titolo. Ecco, questo mi pare che qui sia appropriato questo tema. È certo colpa della teologia, prima dommatica e poi morale, a l'aver accettato come un dato praticamente naturale lo Stato sovrano. B, l'aver accettato come dato praticamente naturale la guerra giusta. C, l'aver accettato come dato praticamente naturale le strutture politiche economiche esistenti. Questo è un dato. Leone XIII scrisse la Rerum Novarum, ma pochi anni prima, 13 anni prima, nell'Acqua d'Apostolici Muneris, scriveva che se nel mondo c'è i poveri e i ricchi, questa è la natura che è così. E quindi Dio provvido fa in modo che i poveri siano assicurati, consolati con le beatitudini evangeliche, e ai ricchi incomba l'obbligo dell'elemosina. E questo è tutto quel che può dire in proposito. Una buona teologia dovrebbe avere una funzione profetica di denuncia del dato presente, che non è affatto fatale o naturale. Denuncia che parta dal traguardo escatologico, assegnato da Dio alla storia dell'umanità. E si ritrova qui il nucleo della dottrina dei segni dei tempi, no? Il grido dell'umanità, l'evento di contrasto, no? La guerra, la fame, eccetera, da coniugare col Vangelo per conoscere appieno il Consilium Dei. Le condizioni storiche concrete in cui c'è una mancanza di fraternità o di solidarietà e c'è un'oppressione, dominio dell'uomo sull'uomo, queste non le posso ridurre dalla scrittura. Queste devono essere valutate con l'occhio attento agli eventi, alle sofferenze, alle angosce e alle esigenze dell'umanità. Ecco la dottrina dei segni dei tempi, no? È chiaro che oggi vediamo le cose diversamente da ieri, ma queste dobbiamo ben far così. E solo attraverso questo continuo coniugare l'annuncio del Vangelo e la sua contraddittorietà col dato, col grido di sofferenza, se vogliamo, dell'umanità in mille forme, solo così, dice il Concilio, siamo in grado di conoscere il Consilium Dei sulla storia e su di noi, quindi il nostro posto, la nostra missione nella storia. Gaudium et Spes numero 11. Vorrei ora mostrare come i due principi da me proposti siano oggi violati in modo massiccio, clamoroso, proprio attraverso l'uso di quelle tre idee che poco fa ho enunciato. Queste tre idee per me sono il peccato, nella condizione attuale dell'umanità, l'accettazione di esse, il sostegno di esse, sono il peccato. E il tradimento della pace, no? Quale pure è stata annunciata come compito supremo nella Gaudium et Spes, è oggi clamoroso in due direzioni almeno, ce ne sono molte altre, ma le due più grosse, che sono collegate fra loro, ma sono da tenersi distinte. Due situazioni in cui chiaramente noi stiamo ragionando in termini di dominio e non di dono. La prima, queste forme di tradimento della pace, è la violenza fisica storica, la guerra o gli armamenti. L'idea di guerra giusta è stata rifiutata dal Concilio. Qui io non sono del tutto d'accordo con Battari. Il Concilio ha operato una riduzione enorme, con conseguenze incalcolabili, rifiutando di adoperare il concetto stesso di guerra giusta, e limitandosi a enunciare il concetto di legittima difesa. Questo passaggio, come spero aver mostrato prima, non è senza conseguenze. Perché se io parlo solo di legittima difesa come un eventuale diritto che non si potrà negare, non è che viene vantato, ma dice non si potrà negare, ogni forma di guerra per tutelare diritti, diritti economici, diritti morali, quello che volete voi, è completamente fuori questione. E ogni forma di difesa che non sia il minimo indispensabile a impedire che ci venga fatto del male e che non crei più male del bene che vuole difendere, che sono le clausole perché la difesa sia legittima, non è più legittima. La conseguenza immediata è che l'uso di armi di strage indiscriminata è sempre in ogni caso molto al di là dei limiti della legittima difesa. E questa è la prima conseguenza che trae il Concilio. Io non posso pensare di difendere alcunché, neanche noi stessi, a spese di stragi in mani nella famiglia umana. Anche se sono agli antipodi. Questo può essere pensabile nel quadro concettuale di una guerra giusta, ma non è più pensabile nel quadro concettuale di una legittima difesa. Quando perciò tanto si parla dei vescovi americani, i vescovi americani non fanno altro che applicare, direi piuttosto timidamente, questo principio. Ma il fatto che tanto se ne parli come qualcosa di clamoroso vuol dire proprio che ancora quelle incrostazioni di cui parlavo sono ancora fortemente operanti. Il Concilio pone due punti che vengono trascurati oggi. Primo, questo che ho ricordato ora. La legittima difesa è soggetta a una regolamentazione derivante da tutta la tradizione morale cattolica e anche dall'esperienza giuridica, rigorosissima. Secondo, il primato del bene comune del genere umano su quello di un singolo Stato o blocco. Questo è un tema che il Concilio introduce al numero 78 di Gaudium et Spes e che è, da un punto di vista teorico, nuovo. Il bene, il bonum comune generis humani è qualcosa di nuovo e di clamoroso, molto più di quello che possa apparire a chi non è esperto, perché qui si mette in questione il diritto di uno Stato a conseguire il proprio bene comune a qualsiasi prezzo o qualsiasi costo. La tesi "ma questo va contro gli interessi del mio Stato" non è più una tesi che giustifica qualunque cosa, giustifica ben poco. Se questo è contro il bene comune della famiglia umana, direi che questo teologicamente, biblicamente è ineccepibile. E allora vedono, l'uso di armi di strage dovrebbe essere rifiutato, diciamo nucleari, ma anche armi convenzionali possono avere effetti, si ricorda il bombardamento di Dresda, per esempio. L'uso di armi di strage dovrebbe essere rifiutato anche come legittima difesa sotto attacco nucleare. Quindi non solo il primo colpo, ma anche la risposta. Perché creando stragi in mani o esponendo l'umanità intera al rischio di stragi in mani si va ben oltre ogni legittimità della difesa e si mette in pericolo enorme il bene comune della famiglia umana presa come un tutt'uno. Quindi l'unica tesi coerente con i principi conciliari e con tutta la teologia che io ho cercato di costruire come teologia della pace è che non si possono mai usare armi di strage, segnatamente le armi nucleari, neanche per difesa sotto attacco nucleare. La teologia oggi riflette molto però anche su un altro aspetto del problema, che in realtà l'uso, la risposta nucleare a un attacco nucleare non è più legittima difesa, è ritorsione. Io non mi difendo più. Io dico tu hai ammazzato me e adesso ti ripago. Questa è un'altra pista che si sta esplorando, ma comunque basta la prima per conto mio. Nasce però un problema. Il problema del possesso di armi. Questo possesso di armi, di strage, è il possesso di armi che io non userò mai o so che non potrò mai usare. Le posso possedere. Beh, di fatto si possiedono queste. Ecco. Ma la giustificazione, come loro vedono, non può essere mai né la guerra giusta, ormai tramontata definitivamente dalla morale cattolica, né la legittima difesa, perché questi non sono strumenti che rientrano nella legittima difesa. Se sono di difesa, cosa di cui dubito, sono però non legittimi. L'unica giustificazione è il concetto di deterrenza. Questo nel testo del Santo Padre del giugno scorso è stato sì accettato, ma con un limite preciso. E anche i vescovi tedeschi nella premessa al loro testo hanno posto questa clausola precisa. Potrebbe essere moralmente accettabile solo come primo passo, ma deve essere chiaramente dimostrabile, evidente, dicono i vescovi tedeschi, più o meno il ragionamento stesso del Santo Padre, come primo passo verso una diminuzione degli armamenti. Laddove questo non serva o si dimostri inadeguato, inefficiente in questo senso, non c'è più legittimazione per il possesso di armi nucleari. Ora, ma il problema è più grave, perché il possesso prevede l'idea di deterrenza in questo senso, è una specie di chimera, perché prevede un equilibrio statico. Beh, dice, siamo pari, non ci facciamo del male. Questo non è successo. E contra factum non valet argumentum. L'equilibrio statico non c'è mai stato. C'è sempre stata una rincorsa. E la deterrenza si è sempre concretata nell'avere qualcosa in più. Siccome a questo gioco si gioca in due, l'equilibrio statico non c'è, ci può essere un equilibrio dinamico. Un equilibrio dinamico che è una spirale, cioè è la corsa agli armamenti. La legittimazione del possesso di armi di strage si riduce nella legittimazione della corsa agli armamenti. E questa è la vera tragedia. La vera tragedia è proprio qui, perché? Qui ci sono date di fatto che non tutti conoscono, ma che sono abbastanza ovvie a chi studia un poco i problemi. La corsa agli armamenti non solo produce morti perché ci sono rischi da stoccaggio, eccetera, ma produce... Non solo produce maggiore probabilità di guerra, perché più armi ci sono è più facile che prima o poi qualcuno le adoperi, ma quello che produce sicuramente è la sua trasformazione in economia di guerra. In questo momento già avviene quello che 2 anni fa, dicendo queste cose, dicevo come prospettiva futura. Oggi purtroppo non è più tale. Siccome una spirale, un sempre maggior numero di risorse, risorse fisiche non rinnovabili, risorse dell'ingegno umano, risorse della tecnologia, risorse delle fatiche dell'uomo, eccetera, vengono sottratte a usi veramente umani, che arricchiscono l'uomo, per essere sterilizzate in una forma che, per bene che vada, cioè se viene usata serve a ammazzare l'uomo. E basta, non serve altro. Questa è una realtà. Signori, bisogna che loro si rendano conto che le cose viaggiano per conto loro ormai. Diceva Paolo VI, è una macchina impazzita la corsa di armamenti. La produzione ha una sua logica ferrea. Si produce per produrre, non per fornire bisogni, per soddisfare bisogni. Non so se loro sono informati che la Boeing, per esempio, ha licenziato 11.000 operai sulle linee di produzione di aerei civili, ma non ha licenziato nessuno sulle linee di produzione di ordigni bellici o strategici. Non so se loro sono al corrente che la Lockheed ha chiuso completamente tutti i reparti di produzione civile e lavora solo per il Pentagono. Il commento dell'Economist inglese, amaro, dice, è un dipartimento del Pentagono. I fabbricanti di morte, come il titolo di un altro numero dell'Economist, si ricordino che l'Economist non è la Pravda, è un giornale fortemente conservatore, dava per aumenti netti di profitto per tutte le grandi corporations implicate nella produzione di armi, dall'81 all'82 dell'ordine dal 30 al 50% di profitti netti aumentati in un anno. Questa è la realtà. Il nostro democristiano Giusto, se non mi sbaglio, la Camera ha dovuto difendere, poi le Camere sono sciolte, nella legge finanziaria lo stanziamento di 1.000 miliardi per quest'anno, di 3.000 o 4.000 miliardi nei prossimi 2 o 3 anni. La difesa è stato molto bravo, perché ha detto che è una cosa vergognosa, ma dice d'altra parte l'occupazione si salva così, c'è poco da fare. Questa è la corsa di armamenti. La corsa di armamenti vuol dire, con una curva che io direi veramente esponenziale, cioè di quelle che vanno su così, no? No così, ma così, tipo quella demografica, una completa strutturazione dell'attività economica intorno al militare. Nei bilanci americani e direi anche in quelli sovietici, forse di più, tutte le spese a scopo sociale, umano, culturale, sanitario sono tutte state ridotte. tagliate. O si è ridotto l'incremento, no? Salvo le spese militari. Ormai praticamente il 50% dei finanziamenti governativi alla ricerca scientifica negli Stati Uniti come nell'Unione Sovietica sono destinati alla ricerca scientifica a scopi militari. E poi vengono a chiedere 20.000 lire di contributo alla lotta contro il cancro, no? Oh, così. Ecco, questa è la realtà tragica. Questo vuol dire il costo agli armamenti. Sì, l'ho capito, lo so. Ecco, una forma di tradimento della pace. L'altra forma, non ho più tempo di illustrarla, la enuncio semplicemente, è il rapporto Nord-Sud. Il rapporto Nord-Sud indica due umanità che vivono con qualità di vita completamente diverse una dall'altra. Il mondo industrializzato, detto Nord, ha una qualità di vita radicalmente diversa da quella del mondo detto Sud. E non posso dirvi adesso i numeri, perché non ho tempo, ma sarebbe interessante. Qui si tratta di capire che qui c'è una situazione deliberata, mantenuta totalmente dal Nord, controllata totalmente dal Nord, che crea questa situazione di oppressione totale. Noi siamo gli oppressori, noi Nord. Ci sono meccanismi ben noti che tutti conosciamo del resto. Non è una fatalità, capiscono, la fame del mondo non è un fatto occasionale, è un fatto ormai strutturale che esiste, guai se non esistesse, perché noi Nord non potremmo continuare a vivere come Nord se il Sud non vivesse come Sud. È un fatto deliberato, voluto, che sfugge alle normali trattazioni sulla pace, ma che è purtroppo una forma enorme di tradimento della pace. Ecco, allora qui io non posso assolutamente dire altro su questo. È disarmata la teologia morale di fronte a questo. Troppe cose vorrei dire, ma la conclusione a cui mi spinge cortesemente Monsignor Sartori, la conclusione è questa. La pace biblica è la pace sul mondo intero, l'umanità e la sua storia. Nessun governo attualmente ha né la forza, né la voglia, né l'attrezzatura mentale e culturale per tener conto della famiglia umana nel suo complesso, dell'oggi, e tanto meno della famiglia umana di domani. La visione cristiana, l'idea di pace, per noi riguarda tutta l'umanità di oggi e riguarda l'umanità di domani. Ecco allora quello che chiamerei in maniera abbastanza precisa la funzione profetica, no? Un compito di fronte a cui la teologia non si è mai trovata, perché fino a pochi anni fa nessuno poteva determinare cosa sarebbe stato il futuro dell'umanità in maniera deliberata e pianificata. Oggi si può farlo e lo si fa. Questo proiettarsi sul futuro non possono fare gli stati, ma lo può e lo deve fare l'annuncio cristiano. E questo mi sembra, a questo punto, il problema dei piccoli gruppi non si pone. Questo è compito della Chiesa come tale. La profezia, il richiamare l'umanità a questa sua totale corresponsabilità per l'oggi e per il domani, non può che essere compito della Chiesa nel suo complesso. In questo senso la profezia è il nuovo compito della teologia morale. Diceva ieri il padre Edgar che dobbiamo avere fantasia, è questo che bisogna fare. Ci saranno forme diverse, molte, ma tutte devono andare nella stessa direzione. Piccoli gruppi potranno essere pensabili che testimoniano questo o quell'azione, diciamo, di confronto negativo con quel che sta accadendo nel mondo, no? Ma qualcosa indubbiamente tutti siamo chiamati a fare. È un'azione positiva a cui siamo fortemente tenuti, quanto più grande l'urgenza di quello che ci sta accadendo intorno. E a questo punto io lascio aperto, per mancanza di tempo, un ultimo capitolo. Questa profezia, questa azione potente sul mondo e sulla storia, che sappia giudicare gli stati e le strutture esistenti nella loro inadeguatezza o malignità o perversità, non è compito solo della Chiesa. Lo Spirito è all'opera dove vuole. La Chiesa deve fare questo, ma troverà sempre uomini pronti a volere la stessa cosa, impegnati sullo stesso piano, partendo da filosofie, ideologie e tradizioni culturali completamente diverse. E questo collegarsi insieme uomini di stati, ideologie, religioni, tradizioni, filosofie, culture diverse, che già sta avvenendo in alcuni movimenti pacifisti o in alcune sedi, è già pace. Perché comincia a nascere un'umanità che pensa alla umanità e non a uno stato o a una condizione o a un interesse privato. Il dialogo per la pace, ma direi che il dialogo sotto questo aspetto di ricerca di cooperazioni e collaborazioni allo stesso scopo, è già pace nel suo farsi storico, no? Ecco allora il tema del dialogo che entra di prepotenza quasi entro il quadro del tema della pace. Io non ho finito, ma finisco, e finisco lo stesso, e vorrei far vedere, concludere così. Io vorrei aver dimostrato che il titolo provocatorio, la pace tradita, non era un titolo solo provocatorio, è, io penso, la realtà. La pace come ideale supremo nel Vangelo e per il cristiano è stata abbandonata e ci siamo rifugiati in ideali di piccole paci, ciascuna delle quali in fondo tradiva l'ideale globale. Non è colpa di nessuno, forse, ma la profezia c'è sempre stata nella Chiesa, ascoltata, non ascoltata. Ora, a partire dal Concilio, noi abbiamo una sistemazione teologica, teologia biblica, teologia dogmatica e teologia morale, che permettono di affrontare davvero e globalmente questo enorme tema, e penso che sarebbe un peccato se si lasciasse cadere questa occasione. Grazie.